faccio un po' come mi viene. A sto gli occhi per cercare il sole, cerco pace, guerra e amore. Sono un animale e non lo dico io. Mi faccio un po' come mi viene. A sto gli occhi per cercare il sole, cerco pace, guerra e amore. Sono un animale e te lo dico anch'io. Un figlio che arriva, la curva che canta, la giostra che gira con il tempo che passa. Io che guardo il cane mi guarda. Lui vorrebbe parlare, noi un po' meno d'ansia. E sai perché? Io faccio un po' come mi viene. Alzo gli occhi per cercare il sole. Cerco pace, guerra e amore.